Se siete sposati e avete dei bambini, vi siete mai chiesto che cosa pensano di voi i vostri figli? Ognuno di noi certamente ha un'opinione sull'andamento del proprio matrimonio, ma che opinione ne hanno i nostri figli? Avete mai chiesto ai vostri figli se pensano a voi come una coppia che si vuole bene e come motivano la loro risposta? Qualcuno ha rivolto questa domanda a 15 bambini, ricevendone le risposte più impensate. Riposte serie, divertenti, ingenue e maliziose, ma tutte molto interessanti e utili per riflettere. Una bambina di 11 anni di nome Anna ha fatto la seguente constatazione. Papà dice 10.000 volte amore alla mamma e mamma 10.000 volte caro a papà. Ma io non so che si vogliono veramente bene perché ho notato che si dicono tante parole. Ma mai la mamma con lo sguardo dolce mette la mano su quella di papà? Da notare che Anna ha 11 anni e si sa che le bambine generalmente sono molto più sensibili dei maschi davanti a quei gesti affettuosi indicativi dell'amore fra due persone. Per questo, nonostante la giovane età, la femminilità di Anna l'ha portata subito a notare. Una lezione per noi grandi. Anche Valentina, di 9 anni, ha notato i complimenti che si rivolgono ai suoi genitori, ma essendo più piccola ha espresso il suo egoismo. Una volta papà e mamma sono usciti insieme di sera. La mamma si era vestita elegante, con gli orecchini e una gonna larga. Quando papà l'ha vista, le ha detto che era molto bella e le ha fatto fare il giro su se stessa per vedere come stava. Erano molto felici, ma io ero triste, perché dovevo rimanere a casa sola con la nonna. I bambini, si sa, pensano a loro stessi, ma questo non impedisce loro di notare come si comportano i loro genitori. Una cosa che deve fare è riflettere gli adulti. Massimiliano, di 8 anni, invece vorrebbe che i suoi genitori non fossero disturbati durante i momenti di reciproco scambio d'affetto, poiché per lui sono fonte di gioia. I miei genitori si coccolano spesso e io sono contento quando succede. Invece la mia sorellina, che ha una grande rompiscatole, si mette sempre in mezzo gridando «Anch'io! Anch'io!». Massimiliano, come maschio, non capisce che le femmine desiderano partecipare al bene che intercorre tra i genitori e così vede negativo l'intervento della sorellina. Però la sua gelosia del positivo perché è compiaciuto nel vedere i suoi genitori che si coccolano. È incredibile come un bambino sia in grado di comprendere l'amore tra un uomo e una donna, e lo dimostra Giordano, di 7 anni, con una brevissima riflessione. I miei genitori si amano parecchio, per questo sono nato io e spesso mi prendono in braccio e ci baciamo tutti e tre. Giordano non ha dedotto che i suoi genitori si amano da espressioni verbali o pratiche, ma ha concluso che se era al mondo questo doveva essere per forza un atto di amore. Al di là delle problematiche matrimoniali che conoscono solo gli sposi, l'ingenuità dei bambini dovrebbe rendere migliori i grandi e soprattutto dare alla sessualità il posto che occupa nell'amore. Ma non tutti i bambini pensano alla sessualità, ne è una prova Giovanni di 7 anni. Mi sono accorto che il papà e la mamma sono felici quando possono giocare con me, così. Io ho promesso che li farò giocare spesso. Stupenda quest'ingenuità. A volte non è forse questo a spingerci a prendere un bambino in braccio con la voglia di mangiarlo di baci? Ovviamente non sempre nel matrimonio tutto va bene, e i bambini lo notano con un'incredibile crudezza e obiettività, ma sempre pronti a gioire quando tutto va bene, come Luca di 8 anni. I miei genitori si vogliono bene, però sono molto nervosi e spesso gridano tra di loro e anche con me. Al sabato e alla domenica invece sono più tranquilli e simpatici e a volte mi prendono in braccio e ci coccoliamo tutti e tre. Luca non può capire le tensioni della vita, ma non si cruccia perché ci sono difficoltà. Questo è un grande insegnamento per noi adulti affinché impariamo a sorridere quando è il momento. Purtroppo però il rancore e l'amarezza spesso distruggono le poche piante di gioia disseminate nella vita. Anche Antonio, di 8 anni, ha notato delle incrinature nel matrimonio dei suoi genitori, ma anche lui ha visto che in fondo si vogliono bene. Sì, i miei genitori si vogliono bene, ma non sempre. Mi sono accorto che dopo aver litigato, di solito se ne vogliono di più. Allora, per farsi perdonare, il papà fa il solletico alla mamma, che si mette a ridere e gli dà un bacio. È proprio impossibile per un bambino comprendere perché i genitori litigano, ma è bello notare quanto siano in grado di vedere l'amore coniugale nelle piccole cose. Se anche gli sposi fossero in grado di comprendere l'amore del partner, Nonostante i litigi e i battibecchi, il seguente commento di Gianluca di 11 anni in merito all'amore dei suoi genitori ha veramente dello straordinario. A volte capisco che i miei genitori hanno voglia di stare soli, me ne rendo conto facilmente, perché sono più gentili tra di loro e poi mi prestano molta attenzione. Allora me ne vado in cortile senza chiedere il permesso, oppure nel peggiore dei casi posso stare in camera mia a fare quello che voglio. Sono contento, quando succede, perché finalmente smettono per un po' di controllare tutto quello che faccio. Gianluca ha notato una necessità dei suoi genitori e non fa nulla perché non la realizzino, anche se, in fondo, ci è un poco di interesse, ma in definitiva questo è saper vivere. Su questa terra non esiste alcun gesto altruistico che non abbia anche una parte di interesse. Chi accetta questa relatività vive bene e fa vivere bene gli altri. L'amore dei bambini nei confronti dei loro genitori è veramente straordinario e ne dà anche una prova a Patrizia di 9 anni con il seguente commento. Mi dà molto fastidio il fatto che i miei genitori alla sera si chiudano a chiave in camera loro e mi raccomandano di non disturbarli. E se succede qualcosa? Patrizia è una bambina e come tale è anche più apprensiva dei maschietti, inizia a esprimere sentimenti di preoccupazione tipici di chi in seguito diventerà mamma. Perciò una porta chiusa è sempre un pericolo. Anche Patrizia, come tanti bambini, è preoccupata per il bene dei suoi genitori. Peccato che i genitori non comprendano quanto i bambini si preoccupino per il loro bene. Simone di 6 anni ha espresso il suo amore per i genitori secondo la sua età. Il mio papà è molto forte. Quando ha tempo si siede sulla sua poltrona e vuole che la mamma gli vada sulle ginocchia. Invece per me la mamma è ancora troppo pesante. Simone ha notato che prendere sulle ginocchia la mamma è un atto di amore e vorrebbe farlo anche lui. E perciò è dispiaciuto di non esserne in grado. È stupendo vedere un bambino che soffre perché non è in grado di esprimere il suo amore. Se questa sofferenza fosse presente nella vita di ogni adulto, quanto meno male si farebbe. Dove sono quei coniugi che soffrono perché non sono ancora riusciti a dimostrare l'amore che provano? E dove sono quei coniugi che soffrono perché non sono ancora riusciti a far comprendere il loro amore? Non solo i bambini osservano gli adulti, ma fanno anche dei paragoni. Giacomo di 8 anni dice: «Non so se il mio papà e la mia mamma si vogliono bene come i genitori del mio amico Marco, che si fanno sempre tante carezze e si danno tanti baci. Io non ho mai visto i miei comportarsi così». Gli adulti sanno che carezze e baci non sono sempre sintomo di amore, ma l'assenza di tali espressioni comunque fa mettere molto in dubbio l'amore coniugale. E i bambini questo lo capiscono. Anche Carlotta di 12 anni ha lo stesso metro di misura. Io quando sono triste e scontenta vado ancora a farmi abbracciare dalla mamma. Allora, perché la mamma non dovrebbe farsi abbracciare da papà quando è triste o scontenta? Quando mancano gli abbracci, quando una moglie non si consola o non è consolata dall'abbraccio del marito, questo è indicativo di eventuali problemi sessuali nella coppia, oppure che uno dei due è ancora rimasto celibe psicologicamente, che i bambini lo avvertono. È quello che ha fatto Federica di 11 anni. Mamma e papà hanno tutti e due i capelli mezzi bianchi e mezzi neri. A me piace molto quando camminano per la strada e papà tiene il braccio sulle spalle della mamma, perché sento che tutto quel bene tra i miei genitori casca addosso un pochino anche a me. I bambini non potranno comprendere tutte le problematiche in merito alla sessualità, ma hanno già le idee chiare che l'affetto prima o poi si manifesta con gesti di tenerezza. La sessualità avrà fine, ma l'affetto e la tenerezza rimangono e col tempo, se sono reali, si rinforzano. Una di queste espressioni di affetto è messa in evidenza da Sandra di 11 anni. Mi piace tanto quando la mamma vede che papà è stanco, allora gli dice delle cose carine, o dolci, o spiritose. Papà si alza, l'abbraccia e ridono assieme. Come godono i bambini quando due sposi si amano reciprocamente e li amano? Ma quanto soffrono i figli se non sono amati dai loro genitori? forse meglio di chiunque altro lo ha espresso Giovanni di 10 anni. Io vivo in campagna. Quando avevo 6 anni ho visto per la prima volta un merlo padre col becco arancione ed un merlo femmina che si beccavano piano piano e poi andavano a dare da mangiare al figlioletto. Mio padre è un operaio, mia madre anche. Vanno via di casa la mattina e tornano la sera. Mio padre si addormenta mentre guarda la TV e mia madre lava i piatti. Se parlano, parlano solo di soldi, di politica e di sindacati. Io vorrei essere quel piccolo merlo e vorrei avere per genitori 2 merli. Che squallore questa descrizione, davanti alla quale a noi adulti non rimane che umiliarci e chiedere perdono ai nostri figli perché riteniamo che il matrimonio sia soltanto una faccenda tra 2 sposi. Ora non è più possibile ignorare i sentimenti dei nostri figli. Febbraio 2007, Enleru.